entro che l'aggancio. Sì, va bene, Franco, va bene. Comunque già i più, diciamo, i più sicuri sono HDL come corriere. Quelli sono assurdi, sono precisissimi. Sì. No, io guarda, dei pacchi ne ordiniamo molto, perché ci ordiniamo anche integratori, tutte queste cose qua da internet, perché costano meno che in farmacia, capito? E ne arrivano, si ordina anche la tintura per i capelli, tutte queste cose qua, tutto da internet, e quindi ne arrivano di pacchi a voglia. Però non avevo mai avuto problemi come questa volta. Una volta solo, vabbè, quello dell'alimentatore te l'ho detto, però era una cosa di continente, che era fermo in continente, non c'entra nulla qua. Sì, Franco. Positivo, qua c'è 9.40 e la radio è... sta usando un microfono normale ed è zitta, bella e pulita. Sì, sta andando. Gianni, tu lo copi a Franco? Sì, a Franco lo copio, però ha una radio bassissima che piano piano quasi se ne va piano piano, quasi per sparire. E io lo sento così, ti dico la verità, però lo sento. Ok, vedi se mi senti adesso, Gianni? Adesso sì, adesso sei tu. Ok, dai, vi ho messo il compressore, vi ho messo. Siccome sto usando il suo microfono originale, la saponetta, perché non ho altri microfoni per collegarli qua, perché bisogna farli tutti i connettori, perché questi sono quei connettori a spinetta. E ci vuole tempo a farli. Tipo quelli del telefono. Tappa. E lì ci vuole la macchinetta per farli. Sì, ce l'ho quella. Solo che ci vuole pazienza. Senti, buono, ma intanto lo stai lavorando, non ce l'hai un attimo di tempo? Chiudi un attimo, figurati. Avanti, capì, adesso mi ascolti meglio, no? Da me c'è anche un po' saturo, però va bene, ti ascolto benissimo. Un po' saturo, ma ti ascolto benissimo, ma noi siamo vicini, fra non fare caso a quello che ti dico io, noi siamo vicini. Gianni sicuramente ti può dare una, diciamo, un'opinione diversa dalla mia. Cos'è un 706 quello? Bello. Sì, un 706. Vedi, adesso forse non saturo perché ce l'avevo molto vicino alla bocca. Adesso l'ho allontanato, ce l'ho almeno 40 centimetri. No, eri meglio prima perché era molto più forte. Ma vabbè, da me non fare caso, mi stai arrivando a fondo scala, quindi non fare caso a quello che ti dico io. Gianni ti può dare, ripeto, delle comparazioni meglio delle mie. Avanti Gianni. Ehi Afra, fai un passaggio lungo. Ehi Gamba, vedi, così ce l'ho 40 cm dalla bocca, ce l'ho. Vedi, man mano che sto andando, sto avvicinando, vedi, adesso sono a 20 cm andando. Così, poi ce l'ho, così ce l'ho attaccato alla bocca. È leggermente compressa, non satura, magari abbassando un po' la potenza riesci a risolvere il problema. Allora, la potenza ce l'ho a due, adesso la porto a uno. Prova. Ok, adesso ce l'ho a uno la potenza, e adesso non lo so com'è la... Ecco qua, è ritornato. Adesso non lo so com'è. Vedi a vedere. Ma no, mi piace più a due, metti a due, fra. Ok, aspetta, ok, così è a due, così. No, no, no, no, mi stavo sbagliando, a uno è meglio. Mi sembra va meglio poco fa, due invece no, è meglio a uno. Adesso che ho fatto la comparazione ho capito che è meglio a uno. Tu come lo senti? Ho capito. Io sento già, a me è vicino e non posso darti una comparazione diciamo adeguata. Da me è 9,40, 9,50. Mi arriverebbe Saturno anche se si affaccia la finestra, capito? Va bene, adesso è regolato bene, non dovrebbe, non è così vicino, attaccato là. Sì, saremo a 2 chilometri attaccato. Ah, 2 chilometri di più forse di più di 2 chilometri, io lo so dov'è, ci passavo ogni giorno prima, perché quando andavo a consegnare nel supermercato che va a Sorso, passavo sempre lì, facevo la strada avanti a casa sua. No, in linea d'aria da me è franco 2 chilometri, se dopo ho capito che ci sono le curve per andare a Sennori, di lì sarà 2-3 chilometri in linea d'aria da me, non di più, ma non di più. No, Gavi. Sì, dimmi Franco. No, non sono da quella zona, sono la zona più alta, sono da via Sardegna. Sì, è tanto giù, 2 chilometri e 700 metri. Vuoi scommettere che c'è tipo un po' un laser che ti affaccia la finestra, lo vedi? Sì. No, ma è più o meno la stessa distanza, più o meno è quella. Da giù o da su è quella lì. Solo che da giù mi avrete ascoltato molto più basso, che sei sotto proprio in terra. Mentre qua sono un po' molto più in alto. Ma tu hai visto dove sono io, sì, cioè presente. Più o meno ho capito, vicino alla fine. E tu lo sai qua, quando c'è un buco, guarda questo qua è un buco. Capo, lì c'era anche coso, come si chiamava? Non me lo metto più, capo. Mi ho dimenticato il nominativo, vicino a te lì. Benito. K, esatto. Proprio lì c'era Benito. E usciva bene lo stesso. Magari una zona buona. Perché tu a Sassari arrivi una bomba. Non è che arrivo una bomba, a Sassari potrei arrivare anche meglio. Cioè. Ma che non arrivi bene, cazzo. È una telefonata, la radio tu. Lo so Gianni, però ci sono, cioè da Porto Torres arrivavo meglio. Arrivi 9.30 qua a volte, non so che cosa attacchi, ma a volte arrivi 9.30. No, ma io non ho niente lì già. L'hai vista la foto che c'ho io, che te l'hai foto io, guarda, non ho più di sulla lingua, io se ho qualcosa da attaccare lo prendo e metto le foto pubblico, non c'era niente. Io sempre con questo qua esco già. Non è che non ho né trucchi né inganni io. Io sempre con questi matti, con questa roba qui, anche perché lo sai, non ho problemi a dirlo. No, attacchi, nel senso, quale apparecchio, quale tipo di apparecchio stai attaccando, di radio, capito? In quel senso lì non che attaccavi lineare. E dipende, no, perché quando uno cambia può avere un segnale o un altro, dipende con che radio esce. Sempre con questa qua già, sempre con questa qua. Ma anche con 3009 parlato. Sì. Col 3009 c'ho l'aiutino, o 747. Ma è regolato, 747 è regolato a uscire con 40 watt. Non pensare che sia tirato a fecca, perché io ti faccio vedere un video, attacco lo strumento, ti faccio vedere che il 747 io di portante bianca ho 10 watt e quando fisso arriva a 40, quindi i modulati sono 25. E come questi qua, capito? Io l'ho fatto, l'ho regolato uguale, hanno tutte e tre le stesse potenze, tutte e tre. E allora come mai a volte, forse anche come quello che uso io, ti vede con un segnale, un altro ti vede con l'altro. Vabbè, questo qui è il rimizzo, te l'ho detto. consegna massimo 9 e 10, dai. Poi da lì non esce, e rimincio proprio. Vabbè, l'importante è che la radio sia bella, pure il segnale lascia il tempo che trova. L'importante a me interessa la radio, che sia bella e, che sia bella e forte. Avanti Francos. Ehi capo, sono ritornato all'altra radio, alla Galaxy sono tornato. Con questa bisogna ascoltarmi meglio. Ehi, per giornata no. Vabbè, qua sto usando le MB più 5 già. Io gli ho messo le MB più 4 al Galaxy. Non mi trovo, lo stavo provando poco fa le MB più 4, però non ho trovato il cavetto, lo spettone, non l'ho trovato. C'ho solo questo delle MB più 5. E guarda che facile mi cambiare le connessioni lì. Devi mettere quelle di sopra sotto e quelle sotto sopra in linea e basta. Se c'hai connessioni Midland devi fare così. Sì, lo so, ma ce l'avevo, solo che del Galaxy non ce l'avevo, l'avevo fatta un'altra radio e adesso c'ho gli spezzoni qua, c'ho e domani me li preparo, me lo preparo. Ne ho fatto un casino per varie radio, ne ho fatto. Però adesso non mi trovo, è evidente che o non l'ho fatto per il Galaxy oppure l'ho smontato. Cappa. No, è una cosa tranquilla da fare, dai. È un gioco da ragazzi, basta che stacchi un filo, metti l'altro su e l'altro giù, così non sbagli. Lo so, è facile, anzi questi sono i più facili di tutti quelli a quattro, ma quelli più difficili sono quelli del capo, quelli già sono difficili, e quelli del 706. Avanti, amico. Beh, mi troverete tutti quanti col baracchino, anche io solo riesco col baracchino, dai. Va bene lo stesso, perché aspetta, non stai uscendo bene. I baracchini oggi escono bene, anzi, più datati sono e meglio sono. Supercar 3009. Questo è Royce che era fermo un po' di giorni, adesso l'ho acceso. Supercar 3009 è questo qua, fra. Quello datato. Ah, capito? Eh sì. Bello lattato, Supercar 3009, cromato, nuovo. Avanti Gianni. Ma il tuo ce li ha, capito? Le bande laterali, le FM, tutto quanto c'ha. Di brutto, io posso andare in qualsiasi posto. Io posso andare in qualsiasi posto. Sì, ha tutto questo qua. Questo va bene anche in macchina, va bene. È che ha pochi watt. E cosa? Il 3009. Sì, ma per il watt non c'è problema. Per il watt non c'è problema. Carne ci vuole. È che la scalda. A scaldare già scalda. Riprendi Franco. Domani notte faccio sentire il presidente Lincoln con l'MC60. E quello è un HF. Il presidente Lincoln, guarda, se cambio radio non te ne accorgi neanche con l'HF. Se metto il C80 e poi metto il presidente, non te ne accorgi neanche. Insomma, il presidente va aiutato per uscire con il C80, Io gli metto solo il microfono l'MC60 ed esce una bomba, esce bene, veramente bene. E il presidente esce con un bel po' di watt, 30 watt minimo li dà. E una ventina, è calcolato per una ventina il mio. Ma da laterale va 10 watt. Infatti. Ce l'ha avuto però un po' il presidente Lincoln. Un piccolo periodo ce l'ha avuto, ma non mi piaceva però. La verità era No, non mi piaceva anche a me come estetica, eppure esce bene. Sì, vabbè già, come estetica magari no, però come radio esce bene. Caspita, non si dà la radio. Appunto, perché tutto il resto non è che guardiamo l'estetica, perché ci sono radio che fanno schifo a vederle e poi escono bene, bene veramente. No, io guardo tutto, anche lui che vuole la sua parte. Io quando ci do di fronte, da parecchi mi piace anche che mi piacciono, dai. Lo guardo io, la guardo l'estetica. Idem, compazzate. Sì, ma quello è giusto. Ma anche a me piace più l'estetica che a volte. Però cosa ne hai se una radio è bella l'estetica e poi esce, non esce bene? Non hai niente. È come che non ci abbi radio, dai. C'hai solo l'estetica. KK. Beh, no. Io guardo l'uno e l'altro, mi deve piacere anche la radio, oltre che uscire bene mi deve piacere, vabbè, comunque è una questione di gusti. Io per dire avrei avuto tante di quelle stazioni in base perché me ne hanno proposto tante, però scelgo solo quelle che mi piacciono. Quelle che mi piacciono sono Royce, Galaxy, ne ho avuto diverse, anche Washington, eccetera, eccetera. Le ho tutte vendute perché poi mi stufava, non mi piaceva. L'altro giorno ho visto, mi sembra che sul mercatino del radioamatori o sui CB, adesso non me lo ricordo, ho visto un Inoiti 34 canali di quello portatile, che c'è anche l'antenna collegata dietro, portatile. Ma era bello, nuovo, nuovo, nuovo. Ah, quello che si mette le batterie dentro. K. Quello lo usavano per la cavalcata, ma il Midland, io quello che hai detto tu, Inuit, non me lo ricordo, il Midland mi ricordo. Questo era un Inuit, so che me l'ho guardato, ma adesso non mi ricordo se era 50 euro ne vuole, o quanto ne voleva, 80, o forse 80. Ha detto, vai, lascia perdere, gli ho fatto come lei, non mi carico di roba vecchia. Io l'avevo acquistato una volta quello della Midland, il provvito per fare un affare, a me mi serviva per quando portavo il cane, no? Me lo prendevo come portatile, me lo mettevo sulla spalla e continuavo a fare il questione, perché aveva anche il microfono esterno. Invece l'ho aperto che c'era tutto quanto il frazzigo, dalle batterie che c'erano dentro, il frazzigo tutto quanto, glielo ho riportato e l'ho fatto da nessuno. E quella è la gente che lo mette da parte con le batterie dentro, ma non si lasciano le batterie, è come i microfoni, se tu gli lasci la batteria li rovini, si rovinano, perché le batterie dopo tanto tempo perdono l'acido. Avanti, capito? È positivo. Guarda, a me, io... a me piace molto il coso, il Galaxy Saturn Echo come base, come baracchino da base, e il Galaxy Turbo, il Saturn Echo Turbo è bello, e ce ne sono tanti CB base che mi piacciono. Ci sarebbe da riempire una stanza, però non si può, però non si può. Va bene, va bene. Franco, ma il tuo MB più 5 è modificato? No, questo è originale, comprato e lasciato così. Modificalo. Fagli, cioè, non modificalo, secondo, prova a modificarlo, magari ti trovi meglio. Ma avevo l'MB più 4 modificato e gli ho tolto la modifica, perché esce meglio senza modifica, troppo forte. Questo qua è modificato. Questo qua è modificato, è un MB più 4 modificato, sia in alimentazione sia con i punti, e ha un braccio, diciamo, un braccio a molla a giraffa con un microfono Shure SM57, quelli per cantare, diciamo, dai, quelli che si usano sui palchi, e ce l'ho a 20 cm dalla bocca. No, questo è tutto originale, questo l'avevo comprato no, 2 anni fa, mi sembra l'avevo preso lì da Fusaro, perché l'altro che c'avevo l'avevo dato e poi mi disoccupi tutto e allora sono andato e me l'ho ricomprato nuovo. Positivo, no, io ho visto, guarda, questo qua il volume sono a metà io, adesso sono a metà come amplificazione, funziona. Adesso l'ho messa al massimo, ha cambiato qualcosa? Ci ha sporcato. Esatto. Lo vedi. Adesso la squadra un pochino lo metto a 4 e va bene così, dai. La cosa massima è a metà, però ce l'ho vicinissimo, eh. Allora, come tu lo alzi, il volume alza, però ti sporca la radio, capito? Non è più limpida. Sì, sì, vabbè, è logico, perché ce l'ho molto vicino, diciamo, alla bocca, modulando, quindi non è che puoi fare quello, dai, alza la radio, sì, è vero, però non è più chiara la modulazione, così è come era poco fa. L'MBP5, sì, è bello, modificandolo e cambiandogli una bella capsula, diventa una scheggia, eh. Bisogna tagliarli con la farina vera che c'ha, metterli nella ovatta oppure nel cottone al posto di quella lamiera attorno alla capsula e già ti danno una radio migliore. Quello gliel'ho fatto già. Io no, gliel'ho lasciato. Si chiama antipop. Antipopolo. La prima cosa che ho fatto gli ho tolto il lamierino, quel dischetto. Quello gliel'ho tolto. L'ho riempito di cottone e l'ho lasciato così. Perché mi faceva all'inizio un po' la radio metallica. Lo sai cosa devi mettere? Lo sai cosa dovete mettere? Io ho la capsula del tarre. Dovete mettere della gomma piuma da 0,5 o da 0,8. Mettetegli della gomma piuma e vedrai come va meglio quel microfono. Anche con l'ovatta e col cottone va bene, capito? Il cottone sì, va bene, però già non filtra molto. Invece la gomma piuma cioè assorbe le alte frequenze, capito? Quindi frena le alte, entrano le basse e spinge in basso la radio e ti dà più corposità. Provalo con un pezzo di gomma piuma e vedrai come ti cambia. Quando cambio il coprisedili alle sedie, la provo. Vai, rompilo uno, vai, fallo. No, lo faccio davvero, io ogni tanto le cambio perché sai cosa si consumano, capito? Ogni tanto le cambio, quando glielo cambio ce li butto sempre. Prima li usavo per mettere nello trasportino del carro, adesso nel trasportino gli ho messo il vecchio materassino che c'aveva in casa, l'ho lavato e l'ho messo lì e quindi non ne metto più lì, capito? Perché il materassino sta comodo. Sì, è positivo, e poi mi dimentico, la gomma piuma assorbe quelle alte frequenze e le basse le passa, quindi la radio ti diventa più corposa. Avanti, Franco. Sì, già in effetti c'è un tipo di gomma piuma che è quella sottile, che va meglio del cottone, perché io il cottone non gliel'ho messo davanti, gliel'ho messo intorno, gliel'ho messo, però la capsula è libera. Così si fa, se lo metti davanti da parlo, e non so quale va bene, è presente quella lunga Italia che arriva in cassette, che i separi che sono fatti di quella gomma piuma fina. Esatto, sì, quella va benissimo qua. Io l'avevo messa quella lì a un microfono, che adesso non mi ricordo dove cavolo, qual era, l'avevo messa a un microfono e va al 100%, bene veramente. Io l'ho tagliata a misura, quella lì, ho fatto i filtri per la cappa della cucina, li ho cambiati perché erano oramai erano usurati, e li ho fatti a misura, le ho messo quella e vedo che filtra bene. Sì. Ah, all'usciuga l'ho messo, all'usciuga, quella fine, allora gli ho cambiato quella dell'usciuga perché quella che c'aveva lui era tutta sciolta, tutta in farina. Dovete fargli il filtro anche davanti alla capsula, va, anche davanti alla capsula, che funziona tipo antivento. nei microfoni professionali, anche di batteria, quando si usano dei microfoni che diciamo dei panoramici, perché alla fine un microfono amplificato come quello che usiamo noi è un microfono panoramico, perché funziona da panoramico. Una volta che amplifichi e prende i suoni o cardioide o semicardioide o a radiazione inversa, invertita, quindi fa da panoramico, e dovete metterli là, dovete fargli un tipo di cuffietta, capito, al microfono. Io adesso in questo qua sto usando una cuffietta, il classico cuffiotto che si mette per i panoramici dei microfoni della batteria. Io adesso ho il cuffiotto, mi segui? Com'è? Anche io ce l'ho la cuffia, non l'ho messa, però ce l'ho, se no mi hai dato un'idea. Forse non sei uscito, Davide, tu eri? No, non ero io. No, è Franco, sei tu? Sì, è Franco già. Non sta uscendo Fra? No, non sta uscendo Fra. Ah, passo il microfono. Sì, io ce l'ho, la mettevo nel sa delta, perché c'ha la parte terminale fino a fine, era brutto da vedersi. Ho messo una di quelle cuffiette lì gialle, comprate all'emiciclo dove vendono strumenti musicali. Ne ho comprato gialle, azzurre, di tutti i colori. Lo sai perché sono gialle, azzurre, ci sono rosse, ci sono nere, lo sai perché? No. Perché ogni colore ha un tipo di intensità di assorbimento. Ah, ecco, io pensavo che fosse per il gusto dei colori. No, assolutamente no. Ogni colore ha un tipo di assorbimento, cioè assorbe un tipo di frequenza. È per quello, mi segui Gianni? E adesso non mi ricordo, la nera è standard, che dovrebbe tagliare i 100 Hz, cioè tutta la parte bassa viene eliminata. E la gialla dovrebbe essere per le medio-basse frequenze, dai 400 ai 250. Bisogna vedere le specifiche di quei cuffiotti. Oh, Gianni? Via. Adesso uscendo? Sì, ma c'è tutto a scarica. È tutto a scarica. E vabbè, questo dovrebbe perfezionare allora. Questo è un altro microfono. Aspetta, cambia il microfono. Capito già, i cuffiotti sono importanti. Adesso io ne sto usando una nera classica, perché la mia voce è già grossa, se ne metterei una diversa non risalterebbero le medio alte, capito? Quindi per me che colore ci vuole? Così io vado, me lo cerco, se ce l'ho, me lo metto. Tu per te dovresti prendere un pezzo di gomma piuma, Gianni, che non sia molto grossa, anche da 5 mm, e provare, lo devi provare, fai più o meno la forma del cuffiotto e la fermi con gli elastici, capito? La metti davanti al microfono e gli fai la fermi con gli elastici e facciamo una comparazione, capito? Possiamo farla magari anche mercoledì, ti cerchi la gomma piuma magari domani o quando è, e la possiamo fare a tratti da 5 mm, perché poi se la vuoi rendere più sottile, la metti un pochino in tira, da 5 passa a 2 mm, quindi la fai comparazioni molto, poi ti accorgi di quanto filtro ha bisogno la tua voce. Ma io dovrei avere già pronte di queste cose qua, le proviamo direttamente, se le trovo, ma dovrei averle da qualche parte, solo che la gomma piuma dopo un po' di tempo si sgretola. Sì, infatti ti sporca anche il microfono, ti va a finire tutta, diciamo, la polverina della gomma piuma della capsula e te lo potrebbe rovinare. Ma te la cerchi un pezzo, tanto te ne servirà quanto? Giusto per fare le prove, 20 cm per 20, un quadratino te lo tagli a misura, tanto una differenza per mettere davanti, e lo proviamo con gli elastici, capito? Così vediamo quanto deve assorbere la tua timbrica, quanto deve assorbire la medio-alta frequenza la tua timbrica di voce. Eia, vabbè, dai, capisco, mi sa che chiudo, dai, domani devo andare presto. Dai, io vi saluto. Ciao Franco, ciao Gavino, buonanotte a tutti e ci sentiamo domani. Ehi a Gianni, sì. No vabbè, domani già non ci sentiamo, domani notte non ci sono. Ci sentiamo mercoledì notte se coincide, se ci siete, io sono già in radio, ti ripeto, solo il tavolo, 8:30, 9:15, io sono davanti alla radio. Ok? Ciao Gianni, grazie del QSO, ci sentiamo tutte le prossime, passate una buona notte, busca la gomma prima e facciamo le te proprio. Ehi, dai, se la busco non c'è problema, vedo se ce ne ho in casa. Ehi, va bene. Franco, ci sei per i saluti a Gianni? Certo che ci sono. Ciao Gianni, comunque, dai, buonanotte, buon tutto e ce l'ascoltiamo le prossimine. Che fa? Buonanotte, ci sentiamo. Ecco. Gavri, poco fa stavo provando un microfono che mi aveva regalato un finanziere. Lo usavano sulle radio loro, lo usavano. Li hanno cambiati e me l'aveva regalato uno. E a quanto ho capito, qua io ti ho ricevuto per un pezzettino, è molto chiaro con un microfono, eh. Per un pezzettino ha funzionato e mi sei arrivato chiaro. Cos'è di quelli con la capsula piccola? È un gelato da uguale a quelli che usi per cantare, uno di quelli è. Probabilmente c'è la batteria scarica, capito? C'è la batteria scarica. Domani lo riapro e ricambio la batteria. È uno stiletto, è uno stilo piccolino. È positivo, ho capito, sì, ho capito qual è. Lo sai quale bisogna provare anche di microfono? Quelli che usano, cosa ti posso dire, nei supermercati per fare per chiamare nei reparti, capito? Quei microfoni RCF, quelli con la trampolunghezza, bisogna provare quella capsula lì. Quella capsula bisogna provare perché quelli sono belli, eh. Allora c'è scritto microfono SHRK. Sì, roba. Scusa, roba di forze armate, sì, sono microfoni buoni. Sono microfoni buoni quelli. Se ti capita che trovi qualcuno, qualche supermercato che ha qualche microfono lì che non funziona, fatelo dare e prova. E provi con la capsula nell'MB5. Una bomba. Io ho trovato due capsule di citofono, adesso appena ho 2 minuti liberi, rimetto il braccio originale all'MB4 e provo a collegarle a vedere. Capo, sì. Io quello lo usavo nel PMR quando avevo l'altra radio però, la Icon, quando c'avevo l'altro Icon. Lo usavo lì ed era perfetta, in PMR era perfetta, bella, chiara. E poi domani guardo e gli cambio la batteria, poi vediamo, lo provo anche, perché deve dare, ed esce da molto, sarà 2-3 anni che non lo uso più. Sì, beh, la batteria vuole nuova, la batteria vuole sempre nuova. È buona. Io questo qua gli ho fatto l'alimentazione al trasformatore, cioè ho fatto 2 metri di cavo per spostarmi, sia all'alimentazione che al cavo che va alla radio, diciamo al pin, al 4 pin che vanno alla radio. Gli ho fatto un cavo a 2 metri. E lo porto a 9 volt, mi segue, lo porto a 9 volt sempre alimentato in modo che la corrente sia stabile, che non devo stare con le paranoie di chi mi fece la batteria a scarica. Sì. Poi probabilmente tu li hai visti questi tipi di microfoni, sono fatti a tipo zampa di gallina. sono fatti a triangolo e la parte bassa c'hanno due cose tipo le dita delle galline, uno alla faccia e uno all'altra. Sì, sono microfoni da tavolo. Lo sai, Franco, qual è il microfono più chiaro che ci possa essere, bello per la voce, diciamo molto performante anche per questo tipo di attività, che puoi collegarlo diciamo a un PTT, tipo questo che ho fatto io, è quello di nuovo, microfono da altare, il microfono che usano i preti, quello che si mette nell'altare, quello lì ha una dinamica è fantastica, quel microfono tu ti sposti, ti metti a 10 metri, prende e poi ti avvicini e prende uguale, poi ha una dinamica assurda, perché sono microfoni che puoi regolare diciamo l'uscita, diciamo la ricezione della capsula, cardioide, semicardioide, quelli bisogna provare, io ce li ho due di quei microfoni, solo che cociani l'animaccia dell'alluno e non mi pare un caso di dirli in radio. No, se costano bene non conviene. Io ne ho un altro che lo uso col pedale, quello lì. E ce l'ho dentro una scatola, ce l'ho adesso, ce l'ho dentro lo scatolone, e da una parte è quello. Quello funziona anche bene, infatti adesso la mandi di Rugo, la pista di Rugo domani è di Bruno. Quello l'avevo fatto per quando stavo saldando questa così, no? E il pedale a terra, quando avevo da rispondere, il PTT era il pedale. Sì, un pedale a macchina a cucire, dai. O un pedale di tastiera, un pedale di chitarra, è uguale. No, l'ho comprato apposta, il pedale proprio per i microfoni, l'ho comprato apposta. Ah, positivo. Lo so, dovresti trovare un pedale di batteria elettronica, quello prende, schiacci, fa contatto, ha proprio la forma del piede, capito? Quindi prendi ed è proprio tranquillo, bello. Altrimenti un pedale di chitarra, di tastiera, un pedale di chitarra, un pedale di tastiera, un pedale di queste cose qui, giusto che dia qualcosa di importante, gli fa la modifica e va. Va bene, ci sono tante cose da provare, volevo fare una prova a mettere un microfono, volevo mettere due microfoni XY, configurazione XY, che ti danno il doppio della modulazione e ti prendono proprio l'angolo della tua voce e le sparano la paura. A me mi stava saltando in testa di prendermi quel microfono da studio, vedi? Hai visto quelli che usano da studio, che hanno tutta la gabbia in giro, belli, uno di quelli mi stava saltando, poi agito, ma sì, a fare il baracchino. No, ma non te ne faresti neanche niente, perché quel microfono lì senza una preamplificazione, diciamo, con equalizzatore non te ne faresti nulla. Non pensate che perché è un microfono, quello è un microfono neutro, ma neutro veramente. Franco, hai fatto bene a non prenderlo, perché per fare quello che vuoi tu non va bene. Per quello che facciamo noi, quei microfoni non vanno. Molta gente è convinta, microfono qua, microfono là, microfono qui, microfono su. Il microfono per i baracchini, per le radio, sono i classici microfoni loro, o altrimenti microfono da filo di fusione, microfono, puoi adattare delle capsule di telefono, quello che vuoi, però microfoni per voce, per cantare, queste qui non vanno bene. Io sto usando uno di quelli adesso, però è perché io so, cioè, lo so parlare questo microfono. Secondo chi lo trovi, secondo a chi lo metti, è uno schifo, eh? È uno schifo, perché si urli appena appena, beh, subito in distorsione questo microfono. No, quello lo sapevo che ci vuole l'amplificatore, ci vuole, perché l'ho già visti, ci sono quelli anche valvolari, sono bellissimi, quelli ti danno una bella modulazione al microfono. Microfono a condensatore, sì, quello potrebbe andare bene. Quello potrebbe andar bene, però a quello devi dare la corrente, ci vanno la 48 volt, quello ha bisogno di essere alimentato con la corrente, 48 volt si chiama Phantom, si chiama più 48 volt, capito? Non va così, se tu lo colleghi diretto così non va, deve essere alimentato tramite una 48 volt che dà il mixer. Ecco, sì, lo so, siccome ce l'aveva un amico mio, ce l'ha, queste cose, io le ho viste da lui, lui mi ha detto, ma cambiati, vinci, e lo vai a precisare un mio, ha giocato, e lo va a pigliarlo, poi ha giocato, perché la spesa non è neanche mica tanto, e alla fine con 200, neanche 200 euro le prendi. Il Behringer prendi il Behringer, quello dorato, visto stracubarato. Microfono da studio per registrare costa 7.000, 8.000 euro. Vabbè, per quello che facciamo noi sì, va bene anche il Behringer, cioè uno si può togliere la soddisfazione e provarlo col Behringer, che poi lo trovi anche a seconda mano, lo trovi a 60 euro, capito? Quindi va bene così quella spesa. Secondo Dando Darretta uno scemo, prova, cercati un microfono RCF da filo di fusione, io lo sto cercando, poi mi dai la risposta. E ti dico anche questo, lo sto cercando per prendere e abbinarlo a un altro MB più 4 e attaccarlo al Kingwood. Poi mi dici, Gavi, avevi ragione. Quelli lì la voce è spettrale, ti fanno la voce spettrale, forte, bella, amplificata e non invadente, proprio piccidusami, pam pam, che schicchia. Capo, allora sai una cosa, io l'ho sentito il microfono con l'MP4 attaccato al chiodo, al 140, al 180, non è che mi piaccia tanto la modulazione, come... adesso non mi ricordo se era Claudio, mi sembra che ce l'aveva così, però non è che mi piace assai a me questa modulazione. Perché quello di Claudio mi sa non è mister, non sono sicuro, ma che mi ricordo non era né modificato, aveva la capsula originale. Infatti io non ho mai fatto quel microfono lì, perché non faccio una ala, c'è perdere, è meglio l'MC60 Ivi, oppure la saponetta sua originale, che esce una bomba lo stesso. Sì, no, devo fare una prova e poi vediamo, vedere come esce, però devo trovare il tipo di capsula che dico io, perché altrimenti non ne faccio neanche di prova. Il giorno che trovo quella capsula lì, mi dici, Gavi, una scheggia, è una scheggia, ma te lo sto dicendo perché è stata fatta una modifica, non l'MB più 4, a un altro basamento, un'altra meccanica, per una conferenza, ed sono state messe delle capsule RCF. Guai, credimi, era una bomba, quando schiaccio, quando, perché anche quelli sono a portante, hai visto quando parlano, quelli sono a portante, non sono microfoni normali che tu prendi e accendi, anche quelli sono a portante, schiacciano il tastino, parlano e mollano la portante, l'hai notato? Sì, sono belli, a me piacciono i microfoni, mi piacciono un po' tutti, io ne avevo in una scatola, ne avevo quattro, me l'avevano regalati, nuovi, e poi li avevo dati a mia nipote, mi sembra, per il karaoke, queste cose qua, per fare il karaoke. poi mi sono venuto, a me pure io tieni tu, fa fammi di no. Infatti, ho visto, a volte, vabbè dai, già si trovano i microfoni, già si trovano, non proprio per quello non c'è problema, ma quando vi servono ditemelo, che magari io già li trovo, microfoni magari buoni, ma magari anche a poco prezzo, microfoni più che altro particolari, che si possono fare delle prove, magari solo capsule, capito? Che poi ci sono delle modifiche che se tu fai, metti un microfono di quello anche dei cinesi che non serve a niente, magari lo metti in radio e funziona meglio dello Shure. Magari sì, probabile che sia così, a volte le cose sembrano così, però poi quando li provi gli attacchi sono... sono al pensiero che hai comprato una cosa che non vale un cavolo e poi te lo senti che sta uscendo molto meglio di quello che hai pagato un bel soldi, capito? È positivo. Questa qua la radio come sta uscendo adesso di modulazione, la mia voce com'è? Beh, la perfetta, Gabri, perfetta, è una telefonata pure. Ma è forte come radio o è fiacca? Senti, l'amplificazione fortina, però è chiara. Adesso sto usando un micro l'NB+4 modificato con un microfono Shure SM57 per voci femminili, capito? Questo qua è un microfono per voce femminile che taglia una determinata onda di hertz di voce e ti esalta solo la medio alta. Quindi tu immaginati, se io metto un microfono perché esalta le basse frequenze, cosa può essere la mia radio? Capo, sì. Adesso vedo quando comincia il tempo bello che si può viaggiare senza queste cose delle catene, vado da Coso, adesso non mi ricordo il paese, gli porto un Galaxy e me lo faccio mettere a posto e poi faccio mettere anche il linearetto dentro. È positivo. Io per battaglia stavo cercando un 2001 perché devo fare una cosa. Devo fare un esperimento con un BBU 2000, però ci vuole il BBU 2001. Devo fare un esperimento. Devo provare delle valvole che sono le equivalenti delle 509, però sono delle valvole di amplificatore di chitarra e hanno le stesse caratteristiche, però sono valvole che erogano 250 watt in una. Caspita, sono uguali a quelle che ho io nel BV131. Positivo. Sono delle valvole di finali Fender, che derogano 250 watt l'una, però bisogna provarle. Devo mettere una prunga lunga, accendere il lineare con una prunga di 50 metri, mettere uno start nella ciabatta e provare a accendere, allora si scoppia. Sì, cavolo, è questa mania. No, sto scherzando, no. No, mi ha detto un amico, mi ha detto che è già stata fatta una prova, l'accensione è regolare, non si sa per quanto, un amico in Sicilia l'ha fatto, e lo sta usando, gli sta dando 1000 watt in AM, 1 kW in AM gli sta dando, fatte delle modifiche, però mi ha detto al momento lo sto usando tutti i giorni, lo sto usando tutti i giorni, va bene, sta usando con 1 kW e suono pure la chitarra. Che puttana, che si sono fuori il gabbo, c'è gente che le prova, però mi serve un 2001, ma a anche senza valvole, perché si ha aperto di meccanica, anche senza valvole, così manda lo schema delle modifiche da farli, e più le valvole le troviamo, le valvole già le trovo qua. A trovarlo è quello, quelli sono introvabili adesso, il 2001, quelli sono russi anche, hanno la cassa grande. Bisogna... C'è gente che fa esperimenti, c'è gente che fa esperimenti e fa delle modifiche, gli riesce bene, e si trovano dei buoni compromessi. Sì, chi sa fare già si gioca. Noi, tipo io di elettronica proprio sono negato, negato. No, anche io non è che faccio. Beh, le cose mie mi faccio, basta, non mi posso, finché fa la sé fa per tre. Quando fa per gli altri non c'è buono, non vale a niente, quindi io faccio le mie cose, poi se si infascia la roba mia è mia. Io sono lo stesso, io a volte mi vengono e mi dicono guarda non me lo guardi questo, no, lascia perdere, che se lo rovino poi c'ho il problema io. Beh, devi risolvere tu, è vero. Va bene Franco, dai che domani io lo stesso ho un po' di roba da fare. Adesso mi sistemo i cani fuori e li prepariamo per il loro turno lavorativo notturno. Dimmi una cosa, la tenna che ti è arrivata non l'hai piazzata? Sì, l'ho piazzata, l'ho provata poco fa, però sotto accordatore. Va bene. Però l'ho attaccata perché devo regolarla, capito? Devo fargli la giusta, diciamo, la giusta impedenza. Quindi non mi vado ad usarla con l'accordatore, l'ho attaccata per così per provarla, ma adesso mercoledì giovedì me li faccio bene la regolazione. Capitato quello lì è come la mano, ma c'è la spirale, no? No, quella lì rigoli lo stilo. Ma lo stilo in punta? Sì. Oh cavolo, la Grazioli, la Grazioli, che cosa gioco di intendi? Quella era la... La Firenze 2, adesso sto usando la Grazioli, e la Grazioli lo stesso, si regola lo stile in punta. Ah, non lo sapevo, che quelle lì si regolavano, pensavo che era come la mantova che c'era la spirale e regola la spirale. No, si regola l'ultimo stilo, anche nella Grazioli, io qua nella Grazioli per portarla a una certa frequenza io ho dovuto regolare lo stilo, in genere perché sono calibrati, diciamo sono calibrati alla fine. In pratica la devi fare in terra, la devi fare. Lo vedi. La mantova era bella per quello, perché prendevi, li facevi la molla e la lasciavi lunga, ti dava la misura sua, la lasciavi lunga e lavoravi sulla molla e non avevi problemi, guarda. Aspettavo la mantova, la portata a 1,1 con 600 watt, io avevo il gobetrotter lineare con 600 watt, l'ho portata a 1,1, mia moglie si metteva giù alla radio e facevo schiaccia, io su col rosmetro, punticello da 45 cm, il rosmetro mi ho fatto la stazionaria a 1,1. Sì, è come ho fatto io. Io ho fatto così lo stesso, col coso, col portatile. Me l'ho agganciato lì, sono salito su con la scala. Siccome l'anno scorso a me, nel 2022, sì, la molla, quella della staffa di sotto si è allentato il bollone, si è allentato forse il vento, non so cosa è, magari non era stretto bene, si è allentato e la molla si è ristretta e si è messo a stare le stazionarie tutto a un colpo, sono andato su. E gli dicevo cosa succede di no. E allora ho messo l'accordatore e sono andato con l'accordatore nel momento. Poi ho messo la scala, sono andato su ed era lenta. E lì me l'ho fatto col portatile, me l'ho fatto. Portatile Autobat, ciao, e me l'ho fatto col portatile. Ma io non avevo fatto, c'era mia compagna giù a casa, io ho provato il rosmetro su, sul tetto, e lo spezzoncino, caspita, non avevo fatto, guarda, un lavorone avevo fatto con la mandorla. Io avevo, una bella antenna era quella lì. Caspita, quando poi ti regolavi bene dalla molla, ci sarà un fascia, levato da solo un fascia, solo per quello non vogliono mai perse. Infatti, no, io me la sto tenendo conto questa, perché è una buona antenna, e poi vento, non vento, questa qua non si muove niente, solo la punta si muove, tutto il resto rimane stabile, rimane, ma proprio c'ha tre ancorature a corda, e va benissimo, no, solo per quello. Infatti adesso quando fate più tempo bello la porto giù di nuovo e poi controllo le stazionarie, perché con portatile non sono riuscito tanto a farle bene, perché ci vuole, secondo le bande sono stazionarie, secondo i canali là, più sali su e più a 555 c'è un po' di stazionarie e quelle lì le devo abbassare per forza. Lo devo fare con un po' di potenza. Gli attacchi basta 231 e ma quella è allungata appena appena la molla mi di lì. Fra vuole presa, vuole allungata appena appena la molla di almeno 5 mm e ti fa sparire tutto. Magari può darsi che ci sia anche un po' di sporcizia, un po' di coso e se le fa salire per quello, però ti fai un segnetto, già lo sai, no? Non c'è bisogno di, comunque ti fai un segnetto e gliele fai sparire con la mantova, le stazionarie spariscono perché allunghi la molla, allunghi, accorci, no, non ce n'è, ma che non si è rotto qualche coso dentro, la molla, diciamo, il cortocircuito dentro, perché altrimenti se è solo roba di caratura la mantova anche gli 80 metri ti accorda, riesce a accordare, a portare a 1-1 con la molla. No, quello gliel'ho aggiustato, l'ho portata giù apposta per quello, perché si era rotto il coso del cortocircuito, si era rotto. E gliel'ho fatto tutto nuovo, gliel'ho tutto bello bellinato, gliel'ho infilato dentro di nuovo. E adesso è perfetto, adesso è controcircuitata l'antenna ed è perfetta come quando era nuova. Quello gliel'ho fatto l'anno scorso, gliel'ho fatto, quando l'ho portata giù. Sì. Belle sono la molla così. Oh, anche la grazione c'è la molla e si può regolare, però devi fare mille regolazioni per toccare la molla, cioè hai una serie di bulloncini e dadi che devi prendere, mollare, girare, poi stringere e abbassare la molla o alzarla, anche lì puoi agire sulla molla, però con la mantova era più semplice perché mollavi il bulloncino da 10 e abbassavi e alzavi come volevi. Anche con la grazione puoi toccare il salottino con la molla giù, però è una cosa che devi avere una precisione assurda, devi essere due persone. Sì, quello sì. E vabbè, vediamo quando c'ho qualche amico e me lo faccio, ma già va bene. E i miei già lineari già ce li ho, c'ho 2231 e più c'ho il 747, quello piccolino, già fatto da Milano la stessa potenza. Io sto usando quello adesso, il 747 sto usando io adesso, quello col 3009. Qua io col 3009 di portante bianca sto uscendo con 1,5 watt e modulati ne da 6,5 watt, con questa potenza qua, con il 747, sto uscendo con 25 watt. No, io niente, sto uscendo, mi sa che mi sta dando 10 watt, mi sta dando, per adesso, il Galaxy, ieri non ne ho attaccato, così invece sto abbassando, ok, così dovrebbero essere 2 watt adesso, sì. Guarda, adesso sono liscio, guarda, va bene, adesso quando lo porto, siccome il segnale dello Smith, questo qua non va bene, non mi dà i segnali giusti, e in più voglio fare di metterlo in frequenza bene, e controllare, aumentare un po' di potenza, quella regolabile, in modo che la posso portare anche a zero, e mettere il linearetto dentro, 7400. Io sto uscendo con 1,5 watt adesso. Allora, 1,5 watt di portante bianca e 7-8 watt modulati in fischio. Liscio, adesso sono liscio, guarda un pochino il segnale, se c'è il segnale, guarda un pochino, adesso attacco, guarda, ora cambiato qualcosa? Sì, è cambiato, però sì, basso, perché la prima volta, prima mi si è andata a 9, poi si è andata a 9,5, perché di più non va lo smitter, capito? Di più non va su questo. Prova, aspetta che attacco l'altro, accendo l'altro a vedere. No, fregatene. No, come radio sto dicendo, capito? No, come radio sei sempre stabile, sempre buona. Ah, la radio è rimasta invariata, non mi ha dato... No, il segnale non è che mi interessa, a me interessa la radio, se è rimasta invariata oppure aumenta. No, è rimasta un po' invariata. Quando attacchi leggermente, si sente che è agganciato, è l'amplificazione che aumenta appena. Ah, ho capito, no, va bene, quindi cioè, mi copri bene anche se rimango attaccato in questo modo qua, vedi, adesso sono attaccato. Sì, ti ascolto benissimo. E allora lo lasciamo attaccato, vai, un pochino così, muova, così rimane tranquillo anche un po' lo 747. No, il 747 lo uso con questo qua e non mi metto problemi, mi piace che esca un 25-27 watt, già va bene. Così sto facendo proprio un pochissimo watt. Sì, ma va bene, poi noi siamo vicini, come hai detto tu, se ti butto là, se ti butto dalla finestra. Sì, vabbè, va bene con pochi watt, che altrimenti sentono tutti. Non c'è quel REM, non c'è niente, infatti io lo tengo sempre squelciato, perché in modo che quel poco di quel REM che c'è non lo sento neanche. Sì, anche io ce l'ho squelcio attaccato, ma sempre, di giorno non si può più accendere la radio, adesso la 27 non si può più accendere. Che ora era? L'una mi sembra, l'una o le due, adesso non mi ricordo. L'ho accesa, l'ho spenta subito, non si capiva niente, anzi ho sentito, mi sembra, o prima di mezzogiorno era, ma se non lo sai non mi ricordo. Ho sentito a Natalino, però lo sentivo basso, perché c'era più QRM che modulazione sua. Sì, a volte il QRM io ce l'ho a 9,10, 9,5, l'altro giorno mi davano anche a 9,10, assurdo. Non ho capito perché d'inverno di solito dove abbassava, e invece adesso sta aumentando. Tutta quella merda voce nell'aria, tutta quella roba voce nell'aria. Cosa ci vuoi fare? Non è come una volta, no? Una volta si parlava in diretta, con la acustica parlavamo. Non lo posso immaginare, adesso neanche qui 27 per parlare. per carità, per carità. E va bene, va bene, va bene. Beh, Franco, mi sentiamo un po' fuori e poi vado a riposare, che domani la sveglia un pochino presto. Cioè, non è presto presto, non è presto presto, però mi voglio un po' riposare. Ok? E domani notte non ci sono, però mercoledì notte già sono in radio, se Dio vuole. Ok? Ciao Franco, grazie del tuo SEO, è stato un piacere. E buonanotte, buonanotte. Ok, dai, ciao, buonanotte, buon tutto. Io la sveglia l'ho buttata da 5 anni fa, poi sono sbattuto al muro, non sono andato in pensione. E lì è rimasto. Ciao, ciao, buonanotte, ci ascoltiamo. Via fra, quest'anno non fa mai danno ai muri, al muro non usa mai rompere. Va bene Franco, dai, buonanotte, buonanotte. Ciao, ciao, ciao, buonanotte.